e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci di nuovo qua, buongiorno e benvenuti. Siamo tornate anche questa volta alla base. È stato bello. Sì, vero. Ma io ho letto di una frase di Paolo Coelho in cui ci ritroviamo molto. E gli uomini sognano più il ritorno che la partenza. Al Festival dell'Economia ci siamo trovati molto bene, anzi vogliamo anche ringraziare molto la signora Renata che ci ha portato le due torte magnifiche. Magnifiche, grazie. Che io me la sono mangiata nel weekend, ecco. Ho fatto festa. Brava. Però insomma siamo tornate qui, abbiamo il nostro tran tran, come esatto. Si dice, eccoci qua. Non a caso peraltro è scomodato uno scrittore molto, molto conosciuto e molto amato stamattina, perché anche di libri parleremo tra poco nella prima puntata della settimana di Cuore e Denari. Però a proposito di trasferte, visto che chi si ferma è perduto, la prossima trasferta è già in vista. Se non te la ricordassi ti rinfresco la memoria, amica mia. Allora, questa settimana saremo a Torino al Salone dell'Auto, che è una manifestazione appunto molto conosciuta, che si tiene dall'8 al 12 giugno. Noi ci saremo venerdì al Parco del Valentino, per cui veniteci a trovare, ci saremo con tanti altri colleghi, i nostri studi allestiti in un track all'interno del parco, molti programmi in diretta e noi, ribadisco, ci saremo per la puntata di venerdì. Io poi gioco a casa e quindi ti porterò un po' in giro per Torino. Brava, brava, che tra l'altro si è rimessa a nuovo negli ultimi anni ed è una città è che amiamo tutti tantissimo. Intanto, in attesa di partire, cara andiamo. Mia, vediamo di partire con la rassegna stampa. E per la rassegna stampa di salute apriamo con una buona notizia. Secondo i dati dell'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, la sopravvivenza ai tumori è migliorata in modo significativo. In Italia, infatti, le guarigioni sono aumentate del 15% in 10 anni e il 70% dei pazienti colpiti da tumore più frequenti può affermare di aver superato la malattia. E soprattutto, questo è un dato molto importante, per la prima volta nel nostro paese si è registrata una diminuzione dei nuovi casi. E di cure sempre più efficaci e mirati se ne sta parlando al 52esimo congresso della Società Americana di Oncologia, di cui abbiamo anche parlato noi, ti ricordi, col professor Michele Maio, quando abbiamo commentato sì. di questo nuovo vaccino sperimentato su 3 pazienti. Il congresso dell'ASCO si chiude domani e sicuramente nei prossimi giorni avremo occasione di fare con i nostri esperti il punto della situazione e soprattutto dare ai nostri ascoltatori le novità. Ci sono cose di cui faremo volentieri a meno, altre che ci imbarazzano, altre ancora che viviamo come un'ingiustizia. Succede nella vita, nelle relazioni di lavoro e di amicizia, ma succede anche, ahimè, davanti allo specchio. Con i brufoli, ad esempio, da loro non si scappa. L'acne, lo sappiamo bene, è un passaggio quasi obbligato dell'adolescenza, visto che colpisce l'80-85% dei ragazzi, ma non solo. Negli ultimi anni si è riscontrato un aumento significativo anche tra gli adulti, soprattutto tra le donne. Ma uno studio dell'Istituto San Gallicano, condotto da un team di ricercatori diretto dal professor Picardo e pubblicato sul Journal of Lipid Research, ha stabilito che la malattia può essere più o meno severa a seconda del tipo di sebo. Maggiori sono i livelli di acidi grassi e più aggressiva è la malattia. Ma per fortuna ci sono delle terapie mirate e personalizzate, ma conta anche lo stile di vita. Allora, per saperne di più, sul nostro sito trovate l'intervista al professor Picardo, che vi darà tutti i consigli utili che spaziano dall'alimentazione da seguire ai trattamenti da effettuare. E passiamo all'ultima notizia. Da tecnica di combattimento a ginnastica di medicina preventiva, parliamo del Tai Chi, antichissima arte marziale cinese che è sempre più promossa da numerosi studi. E quindi direi, Deborah, che si merita anche il bollino di Cuore Denari. Glielo vuoi dare? Certo, okay. Che glielo diamo. Allora, ultima in ordine di tempo, una ricerca che arriva dall'Università di Boston, che ha dimostrato come questa disciplina sia uno strumento efficace per contrastare l'artrosi delle ginocchia, in particolare nelle persone che hanno qualche chilo in più, tutto merito dei movimenti che sono eseguiti in modo lento, regolare, preciso. Però la buona notizia è che il Tai Chi sarebbe un vero e proprio toccasana anche per l'umore, e questo grazie alla respirazione calma e profonda, che migliora l'efficienza dell'apparato cardiorespiratorio e rilassa soprattutto la mente, quindi contribuendo a contrastare ansia, stress e insonnia. Allora, provare e poi mi direte un po' come funziona su di voi. E adesso andiamo a curiosare fra le notizie di denari di questo avvio di settimana. Partiamo come sempre con un'occhiata all'andamento di borsa. Oggi borse piatte, gli indici si muovono sulla parità. Nel vecchio continente anche Milano non ha una reazione più di tanto consistente rispetto al risultato elettorale e ai risultati appunto delle amministrative di questo weekend, anche se nelle grandi città andiamo ai ballottaggi appunto previsti fra 2 settimane. In realtà, più che poi guardare a quello che succederà il 19 giugno, i mercati guarderanno quello che succederà la settimana ancora successiva, il referendum sulla Brexit. In tutto questo però oggi Milano guadagna lo 0,04%. Oggi è in programma un'altra audizione, un altro intervento pubblico del numero uno della Banca Centrale Americana, Janet Yellen. In programma a metà mese la prossima riunione della Federal Reserve, che presumibilmente non interviene sui tassi di interesse, anche alla luce del dato sulla disoccupazione americana che è stato diffuso venerdì scorso. I riflettori invece a Piazza Affari oggi sono tutti puntati, ancora una volta, tanto per cambiare, sul comparto bancario. Parte l'atteso aumento di capitale per il Banco Popolare, un'operazione da 1 miliardo che è finalizzata a completare l'integrazione con la Popolare di Milano. Il titolo, dopo aver chiarito le condizioni con cui fa questo aumento settimana scorsa, è andato sul lotto volante. Oggi invece c'è una situazione più tranquilla, recupera 2 punti, ma il titolo migliore è CNH Industrial, guadagna 3,5 punti. Poi stamattina bene Tenaris più 2, Pop Milano più 1,37, Exor più 1,24. In calo invece abbiamo UbiBanca, perde quasi 2 punti, in calo di 1,5 punti Leonardo Finmeccanica. Oggi entra in vigore la legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto, anche se per la piena operatività bisognerà aspettare ancora un pochino. Un decreto attuativo infatti deve dare le istruzioni sulla tenuta dei registri nell'archivio dello Stato civile. Secondo la senatrice Monica Cirinnà, che è firmataria della legge, appunto, anzi la prima firmataria della legge, le prime unioni civili fra coppie omosessuali potranno essere celebrate dalla fine dell'estate. Per quanto riguarda le convivenze invece, da oggi è possibile presentare la dichiarazione all'anagrafe comunale, ma restano anche in questo caso alcuni aspetti da chiarire sui contratti che disciplineranno i rapporti patrimoniali della coppia e che dovranno essere redatti da un notaio o da un avvocato. È un po' come ci ha abituati Alessandro Milan con l'abolizione delle province. Noi potremmo iniziare adesso a parlare di settimana decisiva per l'introduzione della tracciabilità dei voucher lavoro. Era un provvedimento che aspettavamo settimana scorsa, invece lo faremo la prossima settimana, ha assicurato ieri a Trento il ministro del lavoro Giuliano Poletti a margine del Festival dell'Economia. È arrivato Nicoletta quando noi ce ne siamo andate, perché non voleva dirci se con i voucher voleva fare qualcosa più presto o meno. Il ministro appunto del lavoro si è riferito in questa sua dichiarazione ieri proprio ad un apposito decreto correttivo del Jobs Act, che dovrebbe introdurre nuove misure per limitare l'abuso di questo strumento che spesso maschera, come sappiamo, la somministrazione di lavoro in nero. E a proposito di settimane decisive, l'ultima notizia di denari di oggi: nel weekend è entrato ufficialmente in vigore il decreto che disciplina le modalità di addebito del canone RAI sulla bolletta della luce, di cui tanto stiamo parlando quest'anno. Nessuna sorpresa, come previsto dal provvedimento, il primo addebito nella bolletta elettrica scatterà con le fatture successive al 1 luglio e riguarderà tutte le rate scadute dell'anno in corso, sia 7. Dal prossimo anno invece il pagamento sarà diluito in 10 rate mensile da 10 euro l'uno da gennaio ad ottobre, per un totale di 100 euro a famiglia. E per chi avesse ancora dei dubbi, ci sono le domande e le risposte sul sito della RAI, ma vi segnaliamo anche il sito dell'Associazione dei Consumatori ADUC, a cui noi ci siamo rivolti tante volte per tutti i chiarimenti sulle procedure da seguire per chi non deve pagare il canone, anche se adesso per fare la richiesta è ormai, per fare l'autocertificazione, un po' troppo tardi. Insomma, chiacchiera chiacchiera, siamo arrivate. Sì, siamo arrivati alle informazioni sul traffico. Torniamo subito dopo per commentare la notizia di oggi di Cuore Denari. Se siete lettori, restate con noi. Cuore e Denari. Prendine uno in mano, aprilo piano piano. scoprì le bianche pagine segrete, scoprì le lunghe fitte righe nere. Allora, leggere aiuta, apre la mente, ma anche aiuta a fare carriera e a guadagnare bene. Per questo oggi parliamo di libri, prendendo spunto da una ricerca i cui risultati con Deborah li abbiamo guardati e abbiamo detto: bene, questa è una notizia alla cuore denari. Assolutamente sì. Peraltro, a farci maggiormente piacere è il fatto che questa ricerca è stata pubblicata su un'importante rivista internazionale, ma i ricercatori sono di Padova, non tutti italiani. E allora c'è questa ricerca, la raccontiamo magari, Nicoletta, condotta dall'Università di Padova, appunto, secondo la quale i bambini cresciuti in case piene di libri tendono a guadagnare più da grandi rispetto agli altri. Una ricerca pubblicata sull'Economic Journal, condotta da Giorgio Brunello, Guglielmo Weber e Christoph Weiss dell'Ateneo, appunto, patavino. Sono stati esaminati 6.000 uomini nati in 9 paesi europei a metà del XX secolo. I soggetti sono stati divisi in gruppi sulla base del quantitativo di volumi presenti nelle loro case: meno di 10 libri, una mensola di libri, una libreria con fino a 100 libri, due librerie o più di due librerie. Cosa è stato scoperto? Hanno scoperto che un anno in più di frequenza scolastica ha aumentato le entrate medie nel corso della vita del 9%, ma non solo. Gli uomini cresciuti in case dove i libri erano davvero pochi hanno registrato un aumento delle entrate di solo il 5% per ogni anno di istruzione extra. Invece per gli uomini che da bambini avevano avuto a disposizione un gran numero di libri, la percentuale di guadagno in più è schizzata al 21% per ogni anno di istruzione aggiuntivo. E allora noi volevamo naturalmente commentare con chi potevamo se non commentare con lui che è qui esatto. In studio con noi. Diamo il benvenuto a Salvatore Carrubba, giornalista, scrittore e conduttore di Un libro tira l'altro. Salvatore, grazie per essere qui con noi a Cuore Denari. Grazie Nicoletta, grazie Debora. E si è portato naturalmente anche dei libri, perché attenzione, qua l'ombrellone chiama e dobbiamo arrivarci lì belli rilassati con i libri giusti quest'anno. Allora, inizierei subito a chiederti, dato che a fare la differenza sono le letture di quando si è bambini, come esatto. Aiutare, come i nostri bambini a leggere, oltre che circondarli di libri, perché questo può aiutare. Vivere in una casa con tanti libri a disposizione e con genitori che leggono sicuramente stimolante per i bambini. E subito dopo ti chiederei, non è mai troppo tardi anche per iniziare a leggere? Non si sa se poi questo effetto può avere un aumento dei guadagni, ma insomma sicuramente la mente la apre. Salvatore. Ma innanzitutto ricordiamo che oggi si legge soprattutto quando si è bambini. L'editoria per ragazzi, soprattutto nel nostro paese, è un'editoria che va molto bene perché si legge a quell'età. Il buco nero avviene, si manifesta intorno ai 12, 13, 15 anni, quando i ragazzi smettono di leggere e molto spesso non riprendono più. Quasi sempre non riprendono i maschi, riprendono semmai le ragazze, perché la lettura è diventata anch'essa un fenomeno soprattutto femminile. Parliamo sempre del nostro paese. Quindi questo potrebbe voler dire che le ragazze diventeranno più ricche dei ragazzi, naturalmente, finalmente. Perché leggono di più. Quindi bisogna fare in modo che non soltanto leggano da bambini, ma che si trovi il modo perché verso i 16-17 anni riprendano a leggere, abbandonino il telefonino, il computer e quant'altro e riprendano il contatto con il libro. Da questo punto di vista, averne in casa sicuramente è un incentivo, quantomeno certo. Una tentazione. No, non è detto che sia automatico il fatto che avere i libri in casa spinga i ragazzi ad aprirli, però secondo me... Anche perché poi c'è un'età, noi la conosciamo bene perché abbiamo insomma avuto ragazzi adolescenti in cui gli adolescenti tutto quello che fanno i genitori evitano di farlo. E lo respingono, ma poi si partito passa, preso. Ecco. Certamente. Infatti quindi, bisogna lasciarli liberi sperando appunto che scatti la curiosità. Sì. Andare con dei libri aperti esatto. Qua e là. Sì, pensa un po' tu che io devo suggerire libri di economia e finanza, libri per, come dire, migliorare le proprie conoscenze in tema finanziario, quanto potrò mai essere popolare con i miei nipoti, no? Se arrivano a casa mia e vedono tutti, in realtà non ho una libreria fornita solo ed esclusivamente di questa roba qua, tutt'altro, perché come tutti poi amo. Sono una lettrice di quelle, non so tu Nicoletta, che aprono 10 libri aperti sul comodino e a seconda della serata vado avanti. Dopo la pila crolla si cambia esattamente no, però Salvatore, insomma, i libri per esempio che suggeriscono come amministrare le proprie finanze non sono tanto presenti nelle librerie degli italiani e quindi questo comporta che magari certi argomenti non si affrontino facilmente con i figli o non si affrontino per nulla. Suggerimenti? Ma il suggerimento è rafforzare l'educazione finanziaria, che nel nostro paese è sempre stata abbastanza carente. In questo palazzo dove ci troviamo noi, certo, noi abbiamo svolto un ruolo importante da questo punto di vista, col giornale, con la radio, e non siamo in grande compagnia. Appunto, lavoro di Fabrizio Galimberti. La cultura finanziaria nel nostro paese è abbastanza carente, e soprattutto c'è il rischio che questa cultura passi poi principalmente per il fai da te, che anche quello è un rischio di cui i risparmiatori e i lettori devono essere consapevoli. Allora il mio consiglio è, se dobbiamo prendere un libro in mano, come io spero che si convincano a fare, di partire dalle basi, cioè di leggere dei libri di economia che ti permettano di capire quali sono i movimenti, i meccanismi che regolano i mercati finanziari, l'economia globale nel suo complesso, e quindi ci permettano anche di cogliere la necessità o di rivolgerci a degli esperti o di approfondire veramente la nostra conoscenza. Adesso per esempio è uscito un libro di un grande economista americano che si chiama Dami Roderick, che si intitola Ragioni e torti dell'economia, che è un bel libro da questo punto di vista, perché senza annoiare però ci fa capire quali sono i meccanismi, i paradigmi dell'economia, e quindi il lettore entra in questi meccanismi, e anche il lettore non esperto, e può cogliere l'opportunità di approfondire queste conoscenze. Se si vuole poi cominciare proprio dalle super basi in maniera leggera, io suggerisco invece Fiabe e denaro di Manuela Rinaldi, che è una nostra amica di Cuore e Denaro, insegnante appunto alla Cattolica. Tra l'altro è anche super conveniente, perché lo trovate anche in PDF gratuito su internet, per cui non si può sfuggire da questa lettura. Tutte le morali delle favole, appunto, in qualche maniera legate al denaro. Tanto per capirci, la storia dei tre porcellini, sapete come va a finire con le case di tutti, per cui attenzione anche nell'acquisto della compravendita immobiliare, che è un tema di cui parleremo nella seconda parte di Cuore e Denari. Quindi segnatevelo, iniziate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Salvatore, allora, anche ci sono vari tipi di lettore, no? E un po' è una, mi piace paragonarlo un po', il rapporto che abbiamo con i libri, a quello che abbiamo con gli alimenti, col nostro stile alimentare. Ci sono gli onnivori, ci sono invece i lettori che si indirizzano sempre solo verso un genere o un autore preferito. Ecco, hanno una dieta un po' carente, perché poi alla fine, no, abbiamo bisogno un po' della varietà, anche la varietà fa la qualità. Quali sono i tuoi consigli in questa direzione? Cioè, come comporre una dieta che dia soddisfazione? Come nutrirsi di libri? Credo che dare consigli sia difficile, nel senso che ciascuno ha... Certo. La tentazione della dieta è troppo forte, ci siamo passati tutti, le diete cambiano. Quando eravamo giovani, per esempio, mi ricordo la mia generazione non leggeva narrativa, leggeva solo saggi, poi è tornata di moda la narrativa. Ecco, io credo che ci sono alcuni pilastri, alcuni classici che ci permettono di capire in che mondo viviamo, alcuni greci, Shakespeare, Dante, queste cose non si può sfuggire, non perché sia un dovere, ma perché ci abituano a capire come siamo fatti. E poi appunto la curiosità intellettuale di ciascuno ci porterà a scegliere. Probabilmente conviene scegliere dei libri che non siano necessariamente dei bestseller, che non siano necessariamente dei libri di consumo, fare lo sforzo anche di consigliarsi con qualche libraio, se se ne trovano sì, ancora, proprio perché ormai la produzione è enorme, nonostante il fatto che si legga poco, e quindi anche avere un filtro per reperire i titoli più interessanti è sicuramente utile. Leggete i giornali, ascoltate le trasmissioni. Un libro tira l'altro, d'altronde, Salvatore. Certo. E attira anche le trasmissioni radiofoniche che vanno bene. Certo. Allora, noi salutiamo il nostro ospite, sperando che venga presto a trovarci. Ma due suggerimenti di lettura ce li hai sotto mano? In 5 secondi, Salvatore. Vi segnalo Giuseppe Culicchia, Mi sono perso in un luogo comune, dizionario della nostra stupidità. Si parla anche di libri, e c'è fra l'altro una citazione che collega con quello di cui parlerete dopo. Libri, complemento d'arredo, in soggiorno stanno molto bene gli Adelfi con quelle tinte pastello e gli Einaudi, che col bianco si sposano con tutto. I Sellerio invece. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. macchina caffè. Li ho già presi perché... Quanti caffè avete già preso stamattina, Deborah, tu? Devo proprio essere sincera, no, sincera. Non è che poi il tuo medico mi sgrida. No, io ho preso la caffettierona, quella, esatto, da... Esatto, quindi non diciamo... Più di uno. Non diciamo, ecco, quanti ce ne sono. E ho fatto ovviamente un nuovo intervento, certo, anche prima della trasmissione. Devo venire in forma, d'altronde. Assolutamente sì. Beviamo il caffè per fare magari una pausa, per ricaricarci, ma anche per tenerci svegli quando la palpebra, no, crolla. Bene, e pensate che c'è una ricerca, arriva dalla Nuova Zelanda. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che assumere caffeina diminuirebbe addirittura la stanchezza anche degli occhi. Davvero? Quindi non solo ci tiene svegli, ma dovrebbe riposare anche gli occhi. Ci è sembrata un po' curiosa questa ricerca e vogliamo subito commentarla con il nostro esperto, il professor Francesco Bandello, che è direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Professore, com'è possibile che la caffeina diminuisca la stanchezza degli occhi? La caffeina ti fa stare sveglio, ti aiuta, è un eccitante, no? Come sappiamo, quando eccediamo con la caffeina è difficile prendere sonno, è difficile riuscire a riposare normalmente, proprio perché ti dà una carica e uno stato di eccitazione che rende più difficile il riposo. Quindi che ci siano degli effetti anche dal punto di vista dell'apparato visivo, non c'è dubbio, soprattutto in ragione del fatto che poi lo stato di attenzione passa molto attraverso la vista, certo, attraverso le modalità con cui noi riusciamo a star svegli, quindi insomma che ci sia una correlazione mi sembra abbastanza scontato. Allora, intanto vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori che cosa vi fa cadere la palpebra o al contrario che cosa utilizzate per rimanere svegli. Allora, senza battute. Allora, potete raccontarcelo all'800 24 00 24, ma oggi vogliamo parlare di questa sensazione di stanchezza che spesso avvertiamo alla fine di una giornata di lavoro. I nostri occhi sono stanchi, affaticati, a volte si arrossano, lacrimano, tutti sintomi e segnali che, con cui conviviamo e che tendiamo magari a sottovalutare, ma che raccontano molto dello stato di salute dei nostri occhi. Professor Bandello, quali sono i segnali da non trascurare? Diciamo che gli occhi sono un po' la finestra sul mondo, si dice, no? E così come per il medico gli occhi sono la finestra sul corpo umano, perché guardando il fondo oculare, come si dice sempre, è possibile avere delle informazioni che sono pertinenti allo stato di salute generale dell'individuo. Noi oculisti siamo considerati degli specialisti fortunati perché proprio guardando il fondo oculare siamo in grado di avere delle informazioni sul microcircolo che solo lì, solo a livello del fondo oculare, può essere visto in modo diretto, in vivo. Non ci sono altre parti dell'organismo dove questo è possibile farlo. Quindi che ci siano delle correlazioni tra come stanno gli occhi e come poi stiamo noi in generale, non c'è dubbio, tant'è vero che su di questo è basato poi l'esame del fondo oculare. Allora, un esame di cui parleremo tra poco, ma professor Bandello, la sentiamo? Non la sentiamo bene. Allora, lei metta giù che dalla regia la richiamano subito. Magari parleremo, fa anche un caffettino nel frattempo. Se vuole, nel frattempo si beve anche un caffè. E intanto 800 24 00 24, se volete intervenire per raccontarci se e come, ad esempio, il vostro oculista ha fatto diagnosi proprio attraverso una visita a cui vi ha sottoposto. Se i vostri occhi si arrossano, lacrimano, se fate fatica ad esempio durante la notte a vedere, se vi danno fastidio le luci dei fari, gli abbaglianti delle macchine, sono tutti sintomi e segnali che i nostri occhi ci mandano per avvertirci forse che li stiamo stressando troppo. Abbiamo parlato di quanto sia importante leggere, quanto aiuti, no? Non solamente la nostra mente ma anche arricchisca il nostro portafoglio. Certo. Quando leggete dovete a un certo punto chiudere il libro per dire no, guarda, sono troppo stanco, la lettura mi affatica. Intanto abbiamo ripreso il contatto col professor Bandello. Professore, facciamo... Va meglio adesso? Adesso va molto meglio. Bene. Allora, è bastato proprio una parolina. Professore, lei ci parlava del fondo dell'occhio, un esame, sì, che permette all'oculista di vedere oltre, no? Oltre la vista. Sì, assolutamente sì. È l'esame che da sempre si utilizza in medicina per avere delle informazioni sullo stato del microcircolo, il microcircolo retinico che è significativo del microcircolo di tutto l'organismo. Si ricordi che l'occhio è un'estroflessione del cervello, quindi quando noi vediamo i vasi dell'occhio retinici possiamo avere delle informazioni sullo stato dei vasi del cervello. Immaginate che importanza, che potenziale informativo ha questo esame per tantissime malattie. Il guardare il fondo dell'occhio è una pratica assolutamente non invasiva, che non dà fastidio al paziente, può essere eseguita in qualsiasi ambiente, anche al letto dell'ammalato, ed è grazie a questo che noi in tante circostanze riusciamo a dare anche ai colleghi internisti o neurologi o specialisti di qualsiasi settore, dare delle informazioni che sono poi utili per una migliore gestione dell'ammalato. Quindi almeno una volta nella vita un esame di questo tipo converrebbe? Beh, no, farlo. No, Nicoletta, no. Una volta l'anno, superata una certa età, uno sguardo al fondo oculare è utile farlo almeno una volta l'anno. Almeno una volta l'anno? Io sostenevo una volta nella vita, proprio per invitare le persone che solitamente non vanno dall'oculista o si recano dall'oculista solo quando hanno un disturbo, a sottoporsi a una visita anche in assenza di sintomi, perché tante volte abbiamo, così completo, perché tante volte i nostri occhi, e professore in diverse occasione lei ce l'ha spiegato, in qualche modo un occhio vicaria l'altro, insomma cerchiamo di, no, andiamo avanti e quindi non ci accorgiamo che la nostra vista potrebbe avere dei problemi, noi pensiamo di vedere, crediamo di vedere assolutamente bene e quindi andiamo avanti. Uno compensa l'altro. E quindi questo è importante ricordarsi che dall'oculista, insomma, cerchiamo di incontrarlo anche in assenza di sintomi. Va meglio così. Quello che lei ha descritto, Nicoletta, è l'occhio pigro, che è una cosa che, diciamo, il modo profano viene definito occhio pigro, in termini più scientifici viene definita ambliopia, è una delle cause di ridotta funzione visiva più importanti che ci siano. Ed è una di quelle cose che potrebbero essere evitate se nel momento giusto della vita, che vuol dire prima dell'età scolare, c'è una valutazione specialistica oculistica fatta al bimbo, perché il bambino non è in grado di rendersi conto che vede bene con un occhio e vede meno bene con l'altro, e se non c'è qualcuno che lo va a rilevare prima, diciamo, anche dell'età della coscienza, della piena coscienza, nessuno se ne accorge. E se non ci si accorge di questo quando si è così piccoli, il cervello impara a vedere bene con un occhio, impara invece a considerare meno importanti le informazioni visive che vengono dall'occhio debole, e da lì in poi il cervello per sempre, per tutta la vita, avrà un occhio con cui vede bene e l'altro, appunto, cosiddetto l'occhio pigro. Perché si vede con il cervello. Si vede con il cervello, e a livello del cervello che c'è il processo della visione. E se un occhio ha solo un lieve difetto di vista, ma l'altro non ce l'ha, e quindi invia delle informazioni visive che sono meno belle al cervello, il cervello, piuttosto che vedere doppio, piuttosto che avere difficoltà a sovrapporre le due immagini, preferisce eliminare quella meno bella. Da ciò nasce il processo dell'ambliopia, cioè dell'occhio pigro. Va scoperto subito, perché se non si costringe il cervello a utilizzare l'occhio debole, chiudendo l'occhio buono, questo è il motivo per cui vediamo tanti piccoli pirati andare in giro oggi, con l'occhio bendato, lo si fa proprio per costringere il cervello a utilizzare l'occhio meno buono, ed è l'unico modo che abbiamo a disposizione per evitare la miopia. Allora, ci scrive un ascoltatore per sapere se a 40 anni è troppo tardi per sottoporsi ad una visita. Non è mai troppo tardi, professore, anzi raccomandano anche delle visite, delle visite anche ai bambini piccoli. Assolutamente. Ecco, intanto noi oggi vogliamo aprire i nostri microfoni agli ascoltatori che vogliono raccontarci quando e come i loro occhi manifestano la stanchezza e come la manifestano, se si arrossano, se hanno bruciore, se vedono meno bene. 800 24 00 24 per tutti i vostri interventi. Professore, a volte è anche il nostro stile di vita a fare la differenza, perché i nostri occhi li stressiamo troppo. Anche se gli occhi sono fatti per vedere, quindi non è che improvvisamente... Bravissima, questo è un concetto che secondo me ha fatto benissimo introdurre. Gli occhi sono fatti per vedere, e va un po' demolito quel concetto, quella preoccupazione che spesso i pazienti hanno e che manifestano durante la visita, è quella di dire: ma è meglio che io non legga, perché se ho questo problema così non sfrutto gli occhi e non faccio sì che abbiano un peggioramento della situazione. Questo è falso, è come dire che uno non deve camminare per non rovinare le articolazioni, opposto, no? O non camminare, di mettere in attività per mantenere il fisico in migliori condizioni. Lo stesso discorso vale per gli occhi, non esiste che tu li debba proteggere non usandoli, perché è una cosa che non produce gli effetti sperati. Chi ha un problema agli occhi, chi ha una malattia, nella grandissima maggioranza dei casi deve continuare a fare tutto quello che gli è possibile, tutto quello che gli è consentito dall'eventuale infermità, dall'eventuale riduzione visiva, perché in questo modo non si produce un danno agli occhi, anzi semmai si produce qualcosa di utile alla psicologia di quel paziente, che invece nella maggior parte dei casi, quando tende a non fare, inizia a quel percorso che lo porta poi, ahimè, alla depressione. Perché se tu, come spesso accade in età piuttosto avanzata, cominci a sviluppare un handicap, cominci a non fare determinati tipi di attività, questo è il viatico migliore per poi andare incontro alla depressione e stare sempre peggio. Allora, Alessandro, professor Bandello, ci scrive... vorrei condividere con voi una cosa utile per gli occhi. Lavoro al PC 8 ore al giorno e avevo gli occhi a fine giornata molto stanchi. Ho preso delle lenti per gli occhiali con un filtro speciale per la luce blu, e ci mette tra parentesi il filtro invisibile, e ho risolto il problema. Lo consiglio a tutti. Per info, la luce blu è una luce invisibile, ci scrive, che mettono gli schermi e che distrugge la vista a lungo andare. Professore, trasferiamoci davanti al nostro computer con Alessandro. Ci ha dato delle buone informazioni? È messa giù in un modo un po' tragico, un po' drammatico, però... Però c'è qualcosa di vero. È la verità. Diciamo la componente delle radiazioni ultraviolette presente negli schermi dei videoterminali, diciamo in generale, è una componente che dà un danno visivo. Ovviamente quando si parla di danno si parla di un danno cronico che si può manifestare solo dopo lunghi periodi di tempo con un'esposizione esasperata. Però è vero che c'è questa componente dannosa, ed è anche vero che oggi è possibile proteggersi da questa componente con delle lenti che sono adeguatamente trattate e che sono in grado di filtrare queste radiazioni e far sì che esse non possano penetrare all'interno dell'occhio. Ricordo che le radiazioni ultraviolette sono capaci di produrre dei danni agli occhi sia in modo acuto, basti pensare per esempio quando si va in alta montagna non protetti adeguatamente, la cheratite attinica è un'infiammazione acuta della cornea e della congiuntiva, una cheratoconiuntivite attinica che dà un gran dolore dovuta proprio all'effetto acuto, al danno acuto prodotto dalle radiazioni ultraviolette sulla superficie corneale. È un po' quello che capita alla nostra pelle con quello che noi chiamiamo eritema, no? Quel rossore da sole. Ecco. Ma gli effetti più gravi sono però quelli che si producono in modo cronico, cioè a lunga distanza di tempo, quando questa esposizione prolungata, ripetuta nel tempo, reiterata, fa sì che si sviluppino degli altri tipi di problemi che vanno dalla degenerazione maculare legata all'età, oggi tanto nota, molto più nota rispetto al passato, ad altre malattie come addirittura le malattie neoplastiche, no? Ci sono dei tipi di tumore che vengono a prodursi anche per un'eccessiva esposizione alle radiazioni ultraviolette. Oggi questa cultura del doversi proteggere dalle radiazioni ultraviolette è diventata comune, chi più chi meno tutti sappiamo che dobbiamo proteggere gli occhi, dobbiamo proteggere la nostra pelle, dobbiamo utilizzare i filtri contro le radiazioni ultraviolette. Una volta tutto ciò non era, anzi avevamo una cultura perfettamente opposta, la cultura era quella del dover esporre i bambini alle radiazioni ultraviolette e al sole, semmai facendogli acquisire una dose di latte, di vitamina D, di calcio adeguata, per poi non avere il problema del rachitismo, che era anni fa un problema serio. Oggi non lo è più perché ci alimentiamo in un modo molto più completo e adeguato, però stiamo vivendo la stagione in cui gli eccessi delle radiazioni ultraviolette sono in grado di danneggiare varie parti del nostro organismo. Professor Bandello, tantissimi messaggi anche via WhatsApp, i nostri ascoltatori in linea. Voglio leggere il messaggio di Fabrizia che ci scrive da Verona, 55 anni, ama leggere molto, da un paio di anni usa occhiali con la correzione 1,50, ci scrive, approvati dall'oculista. Però le lacrime in continuazione, gli occhi, sia durante la lettura sia anche davanti alla TV. Ne ha parlato con l'oculista, che l'ha liquidata con non guardi film commoventi. Ma Fabrizia ci scrive, ma io invece mi preoccupo, che cosa devo fare? Professor Bandello. Ma diciamo, se c'è un oculista che ha affermato che non ci sono dei problemi legati all'apparato visivo, quello che mi viene in mente, il più banale problema che spesso è causa di lacrimazione, è una, sembra un paradosso ma è la realtà, una insufficiente lacrimazione. Noi spesso lacrimiamo e abbiamo un'improvvisa fuoriuscita di lacrime perché la quantità di lacrime che viene prodotta non è sufficiente. Noi abbiamo due tipi di lacrimazione: la lacrimazione di base, che è quella che serve a garantire che la superficie anteriore dell'occhio sia adeguatamente bagnata, illuminata e nutrita, e poi abbiamo la lacrimazione riflessa. Quando la lacrimazione di base non è adeguata, non è sufficiente, questo succede superata una certa età, soprattutto nelle donne. Le donne post-menopausa hanno moltissimo questo problema. Ebbene, in questi casi la lacrimazione riflessa improvvisamente cerca di porre rimedio con una lacrimazione di base insufficiente e ti ritrovi con le lacrime che scendono a profusione. Il paradosso è che quando il paziente va dall'oculista e si sente dire deve mettere lacrime artificiali, dice no, non è possibile. Ma no, perché ne ho fin troppe di lacrime. Perché io lacrimo troppo. Invece è proprio così. Bisogna integrare la lacrimazione di base in modo adeguato con tantissimi prodotti oggi disponibili che sono dei succedanei delle lacrime, cioè dei farmaci in grado di sostituire le lacrime e integrarle, per evitare che ci sia questo problema della lacrimazione riflessa. Ricordo inoltre che oggi si vive in ambienti che sono poco umidi, inadeguatamente umidificati, perché tutti noi viviamo in inverno in ambienti che sono riscaldati, no? E in estate? E non adeguatamente umiditi. E in estate viviamo oramai sempre in ambienti condizionati, perché nessuno di noi sopporta più il caldo. Quando sì, eravamo ragazzi, sì, non è vero, guardi, si professore, con un caldo tremendo, si sudava. Con le macchine non c'avevano l'aria condizionata, si tiravano giù. Lo so. In macchina c'hai queste pompe di aria condizionata che ti fanno addosso di tutto. In casa c'hai l'aria condizionata e quindi siamo sempre in un ambiente in cui il livello di umidità è insufficiente rispetto a quello che dovrebbe essere. Per questi motivi bisogna integrare la lacrimazione. Allora andiamo a Roberto, che ci chiama da Rimini. Buongiorno Roberto, benvenuto. Grazie per avermi fatto intervenire. Vada Roberto, grazie. Chiedere al dottore che sto al terminale 10 euro zone. Incomincio con una occhiali con una graduazione di un grado, correzione di un grado, fino ad arrivare a sera altri occhiali con correzione 2. Quindi nel corso della giornata lei deve cambiare gli occhiali. E gli occhi sempre più secchi. E quanti anni ha? 50. E sto facendo anche una curetta con benzodiazepine e paroxetina. Volevo sapere se questi farmaci possono in qualche modo essere in relazione. Allora, grazie. Quello che lei dice consente di tirare in ballo un discorso che è molto importante. Per mettere a fuoco gli oggetti a distanza ravvicinata, noi utilizziamo un muscolo che c'è all'interno dell'occhio, che si chiama muscolo ciliare, e questo muscolo ciliare quando nasciamo è fortissimo, come tutti i muscoli, diciamo, all'inizio sono molto forti e poi col passare degli anni va piano piano perdendo parte del proprio vigore. Il motivo per cui a 40 anni noi abbiamo bisogno di mettere gli occhiali da presbite e cominciamo ad aver bisogno di una correzione per vicino per mettere a fuoco le immagini ravvicinate è proprio dovuto al fatto che dobbiamo integrare la funzione di questo muscolo ciliare che gradualmente si deteriora. A 40 anni di solito, se non si hanno difetti di vista per lontano, la correzione da utilizzare è più 1, a 50 più 2 e a 60 più 3. Quello che mi viene in mente è che il nostro amico di Rimini possa aver bisogno di una correzione un po' differente da quel più uno che lui utilizza al mattino. Se lui il più uno non riesce a utilizzarlo per tutto il giorno, deve passare al più due, vuol dire che il suo muscolo ciliare oramai non ce la fa più. Ha bisogno di un aiutino in più, come si dice. Bisogna avere un più 1,50 probabilmente, o un più 2, anche perché a 50 anni mi pare abbia detto che ha, c'è bisogno di un più 2. se non ha difetti di vista per lontano. Se invece si ha un difetto di vista per lontano, bisogna fare la somma algebrica, il valore che si utilizza per lontano sommato di più 1 a 40 anni, più 2 a 50, più 3 a 60. E questa regolina la metteremo naturalmente sulle pagine di Cuore Denari. Professor Bandello, la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi. È tempo di mercati e poi siamo pronti a parlare di grane con la casa. A tra poco. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Cuore e denari. Noi nel 2013 abbiamo acquistato con mia moglie questo locale pagandolo 39.000 euro. Dopo due anni ci è arrivato un avviso di accertamento dove praticamente l'agenzia delle entrate ci diceva che questo locale valeva 76.000 euro. Che sanzione le ha fatto presente? Allora, la sanzione era 7.611 euro. Un sacco di soldi. Eh sì. Li avete pagati? No, ne abbiamo pagate una parte, 1.425 euro. Allora, adesso vi spiego che cos'è questo brano che probabilmente molti di voi hanno riconosciuto anche per la musichetta di sottofondo che aveva. Allora, sappiamo che molti di voi intanto, oltre ad essere dei fan accaniti di Cuore Denari che mettete in cima alle vostre preferenze radiofoniche, molto modestamente... Siete anche appunto dei fan della TV, delle trasmissioni di denuncia e avrete seguito la battaglia che sta conducendo da settimane il TG satirico Striscia la Notizia contro l'Agenzia delle Entrate, contro la riscossione in particolar modo, ma per essere ancora più precisi, contro le contestazioni che spesso il fisco muove nei confronti di quei contribuenti che non sempre poi hanno magari la prontezza e gli strumenti per difendersi, pur avendo la possibilità di farlo, lasciano perdere. Allora, una delle questioni sollevate, non lo hanno fatto i contribuenti che abbiamo sentito in questo servizio, appunto in questa parte di un servizio andato in onda su Striscia la Notizia. Allora, una delle questioni sollevate da Striscia riguarda le compravendite immobiliari. Molti neoproprietari stanno ricevendo maxi multe dall'agenzia che contesta il prezzo pagato per il passaggio di proprietà. L'agenzia sostiene che il valore reale dell'immobile, secondo le sue perizie, sarebbe diverso da quello pagato per la transazione e quindi chiede l'integrazione fiscale. Allora i contribuenti cosa fanno? Molti si intimoriscono e pagano subito. Altri muovono magari una piccola contestazione, mediano, ma pagano comunque, magari una cifra ridotta rispetto a quella richiesta, ma pagano. Allora il tema è: sono legittime queste richieste? Siamo sempre assolutamente sicuri che l'Agenzia delle Entrate abbia ragione di queste richieste? Perché se loro dicono tu hai pagato una cosa e un tot per questa compravendita, noi ne abbiamo pagata un'altra, siamo assolutamente certi di essere nella ragione, perché l'Agenzia delle Entrate deve stabilire che abbiamo pagato qualcosa di diverso? Allora abbiamo pensato di occuparcene anche noi, abbiamo chiesto l'aiuto a due amici di Cuore Denari, Giovanni Parente del Sole 24 che saluto. Giovanni, ben ritrovato. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E poi la dottoressa Rosanna Cerno, commercialista, consulente fiscale per il Sole 24 Ore su questi argomenti. Benvenuta e ben ritrovata, buongiorno. Grazie. Buongiorno. E chiaramente vorrei sentire anche qualche testimonianza, perché non è che a noi non arrivino segnalazioni di questo tipo. Poi quelle di Striscia magari fanno particolarmente rumore per la vivacità dei conduttori che propongono queste battaglie, ma naturalmente arrivano anche a noi, contro peraltro anche l'attività dell'Agenzia delle Entrate, i meccanismi della riscossione. Sappiamo anche le battaglie che fa spesso e volentieri Oscar Giannino dai nostri microfoni, ma naturalmente le facciamo anche noi. 800 24 00 24, raccontateci se siete in questo momento protagonisti di una situazione del genere e diteci soprattutto come la state gestendo. Allora, Giovanni, hai sentito il pezzo di servizio tratto da Striscia? Sì. Sono dei casi diffusi? Purtroppo sì, purtroppo sono molto diffusi. E si stanno molto più diffondendo anche negli ultimi anni, e tanto è vero che, insomma, al di là della querela tra Agenzia delle Entrate e Striscia Notizia, il discorso è che la stessa Agenzia delle Entrate è dovuta in qualche modo correre ai ripari. Nella circolare che in qualche modo fissa le linee guida per i controlli di quest'anno, c'è un corposo capitolo dedicato agli accertamenti immobiliari, e in cui proprio la direttrice Rossella Orlandi cerca di dare un cambio di rotta, perché insomma evidentemente questo tipo di accertamenti che vengono fatti a livello locale, quindi magari precisiamo un attimo una cosa anche ai nostri ascoltatori, che spesso tra le indicazioni amministrazioni centrali, anche più evolute e più attente ai diritti del contribuente, e quello che avviene negli uffici locali, che spesso sono costretti a inseguire un budget di accertato da raggiungere a fine anno, questa forse sarebbe una delle strutture da eliminare, c'è una grandissima differenza. Anche perché non è che parliamo di una banca che ha il famoso mal di budget che è stato spesso denunciato dal Sole 24 Ore, qua non è che, voglio dire, ti puoi fare un budget di accertamento, probabilmente sarà una cosa lecita, lo so, però poi non è che puoi fare degli accertamenti pretestuosi solo perché devi raggiungere un certo risultato, cioè devi andare anche a mirare al contribuente giusto, quello che è in palese violazione appunto delle norme sul fisco, proprio l'evasore, non così a caso come qualche volta ci sembra che l'accertamento avvenga. Giovanni, scusa l'inciso. Sì, no, hai fatto benissimo, dirlo, Deborah, e poi la dottoressa Cerno ce lo potrà precisare meglio. Infatti, se voi fate caso, a ogni fine di anno, cioè perlomeno negli ultimi due mesi dell'anno, si assiste a un'accelerazione degli atti di accertamento, proprio perché c'è questa esigenza di raggiungere dei budget che tutti gli uffici, anche locali, hanno, e che sarebbe però forse giusto rendere nota ai contribuenti, di modo che si capisce perché un ufficio sta accelerando o deve fare comunque un certo numero di controlli e un certo numero di accertato, anche perché poi quell'accertato quasi mai corrisponde poi al valore effettivamente incassato, perché come dicevi tu, o si media, quindi si paga di meno, o si va in contenzioso. Infatti, e quindi quel valore magari richiesto non lo si vede proprio, lo si vede a distanza di 7-8 anni, perché se ci sono diritti tributari durano tra i 3 gradi, i primi 2 gradi di merito e cassazione, a volte anche 7-8 anni. Quindi, poi un'altra cosa che come dire un po' infastidisce anche in queste procedure, speriamo che la dottoressa Orlandi non si offenda già alla grana con Striscia la Notizia, che è andata avanti anche a colpi di mano piuttosto pesanti, il tema è che se tu chiedi al contribuente, che ne so, 10 perché ritiene che quella transazione immobiliare sia avvenuta ad un prezzo diverso rispetto a quello che risulta appunto dal rogito, e poi non appena appunto il contribuente solleva un po' la cresta, tu ti accontenti anche che il contribuente ti dia 1000, e lì è chiaro che ci viene un po' il dubbio, no, che l'accertamento sia un po' pretestuoso. Giovanni, ribadisco, utilizzo ancora questo termine, magari la dottoressa Orlandi si arrabbia pure con me, speriamo di no, però è anche insomma una situazione che vogliamo appunto ben specificare anche proprio per quei contribuenti, ribadisco, che si vedono recapitare queste contestazioni e non sanno che cosa fare. In realtà gli strumenti per poter quantomeno stabilire un contraddittorio ci sono. Giovanni, ti faccio precisare altri aspetti, poi magari vada la dottoressa Cerno. No, assolutamente sì, Deborah. Il problema è esattamente questo, cioè che poi il contribuente è solo di fronte al fisco, cioè diciamo che chi ha dei soldi per potersi permettere un difensore o comunque per doverselo pagare, alla fine l'ha vinta lui. Poi però invece se il contribuente stesso è solo a si vede recapitare un avviso di accertamento, allora intanto sentiamo una bella sirena sotto, non ti stanno portando via, Giovanni, no, non è che l'agenzia dell'entrata ha mandato qualcuno una riscossione di tipo diverso stamattina rispetto a quelle che conosciamo. Ci fermiamo adesso con te per un secondo, prima cosa perché magari anche con te riproviamo a fare il collegamento telefonico, come al solito il lunedì parte tutto in salita pure con le linee telefoniche. Rosanna Cerno, vengo a lei, ci spiega nel momento in cui arriva una contestazione di questo tipo. E io ho pagato 100 per una compravendita immobiliare, di fisco ho pagato 10, l'agenzia delle entrate mi dice che no, tu secondo me non hai pagato quel prezzo per quella casa, perché quella casa secondo me vale 120, per cui devi fare l'integrazione fiscale. L'ho molto banalizzata la situazione, ma credo che nei minimi termini sia questa. Mi spiega su che cosa basa le sue valutazioni l'agenzia delle entrate? Chi glielo dice che quella casa vale in maniera che dice lei e non è il prezzo pagato dal contribuente? Le dinamiche del mercato l'agenzia delle entrate non lo conosce? Sì, no. Allora, diciamo innanzitutto che più che accertamenti pretestuosi, io direi che questi sono accertamenti di tipo presuntivo, cioè basati su presunzioni, su pure presunzioni. Quindi l'agenzia delle entrate presume un valore normale. Che vuol dire valore normale? Un valore di mercato dell'immobile acquistato più alto, e quindi quando io acquisto un immobile, invece che secondo l'agenzia averlo pagato quel valore indicato nell'atto di compravendita, ho pagato magari di più e ho dichiarato di meno per pagare meno imposta di registro. Ok, allora a questo punto secondo me effettivamente l'agenzia delle entrate molto spesso disconosce i valori veramente reali di mercato perché partiamo da un presupposto importante: il mercato lo fa la domanda e l'offerta. Esatto. Allora, adesso con la crisi che c'è stata immobiliare, che è agli occhi di tutti, ma poi ci possono essere anche altre esigenze, perché io posso benissimo acquistare un immobile facendo l'affare della mia vita, pagandolo veramente di meno, esatto, rispetto al valore anche di mercato. E sta accadendo, perché magari sta accadendo, il venditore, certo, ha bisogno di realizzare, certo, bisogno di soldi. Quindi questo, ecco, l'agenzia questo ha il diritto e anche la facoltà, diciamo, più che il diritto, ha la facoltà di contestarmelo, però anch'io ho la possibilità sicuramente, ecco, di difendermi. Esatto, allora andiamo a questa. Insomma, se io sono totalmente in buona fede, ho fatto l'affare dell'anno, che può essere anche un affare per il quale magari ho risparmiato 10.000 euro sul valore di una casa, se quella casa l'agenzia delle entrate dice che vale 100, magari io non è che l'ho pagata 30 e posso anche averla pagata 90. Però insomma l'agenzia può anche contestare questa differenza di prezzo di 5.000 euro. Come posso fare a dimostrare che sono nel giusto? Abbiamo una doppia difesa, secondo me. Innanzitutto è bene prevenire queste eventuali contestazioni, quindi sapere che l'ufficio mi potrà entro 3 anni dall'acquisto fare queste contestazioni, è bene saperlo. Come posso prevenire? Se magari io ho acquistato quell'immobile ad un prezzo conveniente, o comunque quel prezzo che poi ho indicato effettivamente nell'atto, perché ho comprato un locale, a quel punto magari mi conviene conservare quell'annuncio che ho, diciamo che mi ha fatto acquistare quell'immobile, l'annuncio dell'agenzia, o anche adesso si fa anche con gli annunci su internet. Ancora meglio sarebbe farsi fare una bella perizia da un consulente, ovviamente un geometra, un architetto, un ingegnere, che attesti invece magari il vero valore del mercato, perché il valore del mercato lo fa sì la richiesta, ma anche l'ubicazione dell'immobile, perché se parliamo di un locale, magari in quella strada non è che tutti quei locali valgono al metro quadro quello che dice l'agenzia delle anche entrate, se parliamo di via della Spiga a Milano, potrebbe essere che appunto proprio il punto migliore in assoluto abbia, sì, io lo so che magari non ho fatto un esempio calzante, Nicoletta, no, stavo pensando, però che ecco, è dura, se, no, è anche perché è corta, sì, ecco, esatto, quindi magari lì valgono tutti, però per vialoni particolarmente lunghi, anche quelli particolarmente, come dire, facoltosi, ci possono essere, esatto, immobili di qualità diversa che portano, certo, un prezzo al metro quadro differente a Cerno. Sì, perché è paradossale che poi l'agenzia, io ho visto un po' di questi accertamenti, perché ci sono appunto delle persone che poi si rivolgono a me per questi accertamenti, vedo che l'agenzia delle entrate, in verità in maniera anche un po' superficiale e diciamo noi fortunatamente per noi che dobbiamo difendere, dicono che quelle zone sono, quando tutte deve uguali fare l'accertamento, sono, non sono tutte uguali, ma sono tutte centralissime, tutte zone commerciali, e magari sono zone che non sono ben servite, si trovano, io sono a Roma, in vere e proprie borgate, non sono, non hanno quell'esposizione che, certo, l'agenzia delle entrate vorrebbe. Rosanna far Cerno, credere. Mi scusi, è arrivato il momento del traffico, siamo già in ritardo. I primi due punti li abbiamo capiti, adesso andiamo al terzo. Aspetti lì. Cuore e denari. Normalmente il contribuente che deve comprare un negozio si fa fare una valorizzazione, una stima, una valutazione, che se è coerente con i prezzi di mercato sicuramente non creerà alcun problema. Se non è coerente, è possibile che ci sia una contraddittorio. I valori che prendete come riferimento. E questa era Rossella Orlandi, sempre dai microfoni di Striscia la Notizia. Anche noi l'abbiamo intervistata tante volte, però ci interessava appunto capire come avesse proprio risposto il numero uno dell'Agenzia delle Entrate al TG satirico che sta portando avanti questa battaglia sulle compravendite immobiliari, sulle contestazioni che l'Agenzia delle Entrate muove a quei contribuenti appunto che hanno finalizzato una compravendita, ma l'agenzia dice: secondo me tu l'hai fatta ad un prezzo diverso rispetto a quello che denunci e quindi ti chiedo l'integrazione fiscale. Detto questo, 3 modi per difendersi quando arriva questa contestazione, ce li stava suggerendo Margherita, sì, scusate, Margherita, Rosanna, continua a chiamarla, io ho un'amica che si chiama Margherita, dottoressa Cerno, gliel'ho detto 1000 volte e continua ad andare così, pazienza. Va bene, l'importante è che lei lo sappia, esatto, così risponde anche sono, con Margherita, esatto, che è tra l'altro un nome bellissimo. Dottoressa Cerno, allora, prima ci diceva: facciamo tutte le azioni preventive necessarie per fare in modo che qualora arrivi la contestazione siamo pronti a difenderci, teniamoci addirittura l'avviso dal quale abbiamo trovato quel prezzo che abbiamo pagato per quella casa, per cui sì, l'annuncio dell'agenzia immobiliare. L'annuncio dell'agenzia immobiliare, esatto, oppure se è un privato che ha venduto direttamente, esatto, quindi l'annuncio. Il primo germe della compravendita. Poi la perizia, facciamoci fare una perizia. Eventualmente. Ma quella viene già fatta in fase di erogazione del mutuo, perché la banca in realtà la perizia la chiede, dottoressa Cerno. Perché ne dobbiamo fare una in più? In verità la banca, quando procede a fare una propria perizia, lo sappiamo tutti, la banca per concederti un mutuo più alto, che magari tiene conto anche di un'eventuale ristrutturazione o anche della parcella notarile, delle spese proprio dell'atto, anche le imposte, tende, come dire, a gonfiare la perizia. Sì, adesso lo fanno un po' meno, però insomma nel momento del boom immobiliare anche di questo abbiamo parlato tantissimo. Esatto, però questo potrebbe essere un vero e proprio problema, un boomerang, perché l'Agenzia delle Entrate si basa molto anche su questa perizia fatta dal diciamo per il mutuo, e quindi questa perizia fatta dalla banca. Quindi anche se vi sembra che la banca in quel momento vi sta facendo una cortesia, perché dal perito fa fare una perizia un po' più alta del valore dell'immobile perché avete bisogno di un mutuo più alto, sappiate che non vi sta facendo alcun favore, perché in realtà l'Agenzia delle Entrate poi può tornare appunto a chiedervi conto di questo comportamento. Terzo elemento che volevamo aggiungere, dottoressa Cerno? Terzo elemento, quando si va, io piuttosto che, vabbè, un po' per lavoro, quindi per deformazione professionale, non accetterei mai una contestazione da parte del fisco così. A lei proprio per deformazione professionale la contesta a prescindere? Sì, comunque andrei, c'è la possibilità di fare il cosiddetto accertamento con adesione. Cosa vuol dire? Entro 60 giorni da quando ho ricevuto questo atto di accertamento, mi presento all'ufficio. In verità mi potrei presentare da solo o diciamo assistito da un difensore, quindi per evitare i costi di un eventuale contenzioso e quindi di una lite successiva dinanzi al giudice tributario, potrei addurre le mie giustificazioni, quindi, come dire, presentare questa perizia che ho fatto fare prima, l'annuncio che ho, diciamo, che mi ha fatto acquistare quel locale. Esatto, o altri annunci immobiliari che io ho reperito nel momento in cui ho acquistato quel locale, che dicevano che mediamente i prezzi di mercato a quella data erano quelli. E poi contestare, questo io è quello che faccio sempre in verità, l'assenza di gravità delle presunzioni adotte dall'ufficio. Cosa significa? Mi spiego meglio. L'ufficio, lei mi ha chiesto su che cosa basa queste presunzioni, questo valore. Allora, di solito l'ufficio si basa su quello che si chiama generalmente OMI, cioè l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, delle stime fatte, dei parametri che vengono fatti da studiosi. Però, come diceva giustamente lei, su base di zone, su macro aree urbane, non è che sul singolo immobile, cioè voglio dire, l'ufficio quando fa questo accertamento non fa un accesso presso il locale che ho acquistato, presso l'immobile che ho acquistato. Lo fa presuntivo, lo va a secondo questo database, come carta, diceva lei. Esatto. Quindi secondo me quella è una presunzione, cioè un indizio, ma non è la prova certa. Allora io dico sempre in maniera molto semplice, dico, visto che l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di controllarmi anche i conti correnti, perché con le indagini finanziarie o gli accertamenti bancari lo redditometro fare, e compagnia bella, esatto. Ecco, perché non va a vedere il mio conto corrente e va a vedere se io ho prelevato, perché lo può fare, se ho prelevato delle somme in nero, cioè proprio delle somme. E invece sì, esatto, così, sono sempre degli strumenti di accertamento, dottoressa Cerno. Cifre sospette. Prima dell'acquisto magari ho prelevato 10.000 euro così, magari continuamente, allora a quel punto puoi avere quella presunzione grave che mi dice effettivamente ho pagato di più quell'immobile. Ma per lei è insufficiente che si basi solo sui valori appunto dell'OIM, ecco qua, ho capito benissimo, dell'OMI, esatto, io metto immobili prima di mercato, ma insomma poi l'organismo facciamo finta che sia lo stesso. No, ma in verità non lo dico io, lo dice la giurisprudenza, quindi diciamo che la Corte di Cassazione tante volte si è espressa su questo allora sistema. Stiamo ecco andando verso la chiusura, mi scusi se la scavallo continuamente, ma qua il tempo corre, volevo sentire almeno un caso e poi far fare anche una battuta finale a Giovanni Parente. Allora, Eliana da Roma, velocissima, grazie. Niente, Io sono stata soggetto di questa truffa perché ho comprato un negozio. Accertamento presuntivo si chiama. Accertamento presuntivo che è stata una truffa vera e propria, perché io sono proprio il caso tipico. Il mio conto corrente era più che tracciato, perché tra l'altro svolgo l'attività di architetto, sono una perito estimativo del Tribunale di Roma, quindi me ne intendo. Ho comprato un negozio, un negozio per metterci l'attività, quindi io ci svolgo l'attività di studio. L'ho comprato con un'agenzia, quindi quell'immobile era su internet in agenzia con quel prezzo, l'ho preso a quel prezzo, 165.000 euro, tutto tracciato, ho pagato anche l'agenzia di facendolo dichiarare nell'atto di acquisto, quindi i soldi erano precisi, calcolati ed erano quelli, perché erano... Quanto li ha chiesto l'agenzia delle entrate? 19.000 euro con un accertamento di 240.000 euro sulla base dei valori OMI e della borsa immobiliare. A mia contestazione, al primo accertamento con adesione, diciamo, dove c'ho testimoni, c'era il mio commercialista più la signora, la venditrice, quindi tutti come dire sorpresi di questa cosa. Eliana, allora, com'è finita? Ci racconti? Ha contestato? Ha sbagliato anche il contratto d'affitto, perché si sono anche presi il contratto di affitto dell'immobile accanto per dire, che quindi era più grande, più alto, eccetera, per dire che il nostro immobile valeva 240.000 euro. Alla conclusione, pago l'avvocato, faccio ricorso, mi mandano un secondo accertamento, a questo punto 170.000 euro, dimostrando tutto quello che era dimostrabile. Guardi che delle perizie se ne fregano, hanno detto hanno detto che non gliene importava nulla, che tanto avremmo comunque pagato, che comunque, cioè proprio una serie di piccole minacce, piccoli soprusi, però... Ma ne è consapevole, dottoressa Orlandi, guardi. Cittadino onesto che paga regolarmente le tasse, che ha pagato, Eliana, dobbiamo chiudere. Purtroppo ho pagato. Quanto? 2600, 1300 io, 1300 la venditrice, perché ci conveniva per chiudere, certo, perché sennò andava avanti con questo contenzioso, l'avrebbe già pagato, lo usi però. Grazie. Aspetta. Allora dobbiamo chiudere, sapete che... Peccato. Vi dico che ci torno al più presto su questo argomento, perché ho mollato lì Giovanni Parente, voglio completare tanti ragionamenti con Rosanna Cerno. Ci torniamo presto, grazie a tutti, intanto noi torniamo domani sempre alle 10:30, vi aspettiamo.